Per molti credenti la lettera di Giacomo contenuta nella Bibbia, e precisamente nel Nuovo Testamento, è ritenuta nel numero dei libri meno importanti e più imbarazzanti, anche perché uomini come Lutero e Calvino non hanno colto pienamente la relazione tra le opere e la fede. Lutero giudicò la lettera di Giacomo una lettera di paglia perché in confronto alle altre lettere del Nuovo Testamento essa non rifletteva la caratteristica del Vangelo, mentre Calvino, molto più cauto, considera Giacomo più reticente di quanto dovrebbe essere un apostolo nel proclamare la grazia di Cristo. Eppure, se compreso, il messaggio di Giacomo è veramente unico ed in armonia con il messaggio centrale del Vangelo. Purtroppo, come spesso succede, una verità che illumini improvvisamente gli occhi della nostra ragione, colpendo come il sole quando il cielo è terso, piuttosto che far vedere e comprendere, acceca e confonde. Queste riflessioni hanno lo scopo di mettere in evidenza ciò che Giacomo dice veramente nella sua lettera quando tratta della giustificazione per mezzo delle opere. Forse a molti sembrerà strano questo discorso, ma Giacomo sostiene proprio per due volte che la salvezza e la giustificazione si ottengono per mezzo delle opere. La prima è riferita ad Abramo. Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per mezzo delle opere quando offrì il proprio figlio Isacco sull'altare? Versetto 21. La seconda è riferita ad una prostituta pagana, cioè a Rahab. Anche Rahab, la prostituta, non fu essa giustificata per le opere quando accolse i messi e li rimandò per un'altra strada? Versetto 25. Chi crede che la salvezza sia ottenga solo per mezzo della fede, si trova leggermente confuso di fronte a dichiarazioni così evidenti. E per far quadrare il messaggio della salvezza per sola fede con il messaggio di Giacomo, sostiene che Giacomo si riferisce alle opere della fede. Diversamente, la fede non è fede, perché se fosse una fede vera sarebbe dimostrata dalle opere. Una simile interpretazione non è errata ed è in armonia con tutta la scrittura, perché una vera fede si dimostra con le opere. Ma questa interpretazione non riguarda il messaggio di Giacomo e a nulla serve ignorare, o addirittura negare, che la salvezza si ottenga per opere. Il fratellastro di Gesù ha scritto qualcosa di molto più profondo, che purtroppo pochi credenti, tra i quali Lutero e Calvino, hanno compreso. Dobbiamo riconoscere che mentre la religione cattolica romana fa naufragio confondendo fede e opere, la Chiesa evangelica è esposta al pericolo di separare la fede dalle opere. Il primo errore induce gli uomini a credere di potersi salvare con le proprie opere, mentre il secondo porta gli uomini a pensare che essi possono essere salvati senza opere. Due errori che vogliamo evitare. Nell'iniziare a parlare della salvezza per mezzo delle opere, Giacomo imposta così il suo discorso. A che giova, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Or, se un fratello o una sorella sono nudi e mancano del cibo quotidiano, e qualcuno di voi dice loro: andatevene in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose di cui hanno bisogno per il corpo. A che giova? Così è pure della fede, se non ha le opere, per se stessa è morta. 2.1417. Giacomo si chiede se la fede può salvare qualcuno, dato che la domanda è alquanto strana, perché in tutta la scrittura viene dichiarato che la salvezza è per mezzo della fede. Qualcuno ha proposto un'altra traduzione, e cioè: può questa fede salvarlo? Se questa traduzione fosse giusta, Giacomo si sarebbe chiesto se una fede senza le opere potesse salvare qualcuno, e la risposta sarebbe ovviamente no. Ma Giacomo non ha chiesto se una fede senza le opere può salvare qualcuno, ma piuttosto se la fede è in grado di salvare qualcuno. La domanda, così come è esposta, implica che la risposta sia no. Anche perché si sa che la fede non ha mai salvato nessuno. Se la fede fosse in grado di salvare chi la possiede, allora anche i demoni sarebbero salvati perché, come precisa Giacomo, credono in Dio e tremano. Versetto 19. Se la fede salvasse, allora tutti i religiosi che hanno una fede sarebbero automaticamente salvati. Ma dato che la scrittura afferma che non è sufficiente avere solo fede per ottenere la salvezza, la fede di conseguenza non salva, dato che chi salva non è la fede, ma l'oggetto nel quale è riposta la fede. Se sto annegando e vedo un ramo di un albero che galleggia, io posso avere una grande fede che esso possa salvarmi, ma se è troppo piccolo per tenermi a galla, la mia fede sarà vana e non mi salverà. Se invece ho pochissima fede, ma mi aggrappo ad un tronco, che è in grado di tenermi a galla, esso mi salva. Quello che conta dunque è l'oggetto della fede. E l'oggetto, se così possiamo dire, che Dio ha stabilito per salvare l'uomo è Gesù Cristo. Questo spiega perché chi ha fede nei tanti e diversi mezzi offerti dalle varie religioni non può essere salvato. Un musulmano che crede in Allah può anche avere più fede di un cristiano che crede in Cristo, ma resta comunque perduto, non per la sua poca fede, ma perché l'oggetto nel quale crede non lo può salvare. Quello che importa non è la quantità di fede che l'uomo possiede o deve avere, ma è la qualità. È questo che Giacomo chiede. La fede può forse salvare chi la possiede? Se la fede non può salvare nessuno, quanto più non salverà una fede senza le opere? Perché allora Giacomo mette enfasi sulle opere, se la fede non salva e tantomeno le opere stesse? Giacomo sta parlando di opere perché il suo scopo è dimostrare che non esiste una fede senza le opere e che la fede per essere tale deve essere composta di opere. Così infatti ha scritto Giacomo: Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per mezzo delle opere quando offrì il proprio figlio Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede operava insieme alle opere di lui e che per mezzo delle opere la fede fu resa perfetta. Versetto 21-22. Se Abramo fu giustificato per mezzo delle opere, occorre uno sforzo per capire il rapporto esistente fra la fede e le opere. Spesso la maggiore difficoltà nell'afferrare il ruolo delle fede e delle opere sta nella comprensione di ciò che è la fede. Perché generalmente si considera la fede come una unità assoluta, mentre la fede è una unità composta. La differenza tra l'unità assoluta e l'unità composta si può comprendere nel paragonare un libro a una pagina. Una pagina è un oggetto singolo, mentre un libro, pur rimanendo un oggetto singolo, è composto di tante pagine. Stessa cosa vale per un gregge e una pecora. Una pecora è una unità assoluta, mentre un gregge rimane sempre un numero singolo ma composto da tante pecore. Così, la fede per essere tale non è solo fiducia, ma deve essere composta anche di un'opera. Se la fede che salva è un'unità composta, diventa evidente che la fede, per essere efficace, debba contenere le opere. Non perché queste salvino, ma perché sono semplicemente la componente della vera fede. Se sto annegando e vedo un tronco che mi può salvare, devo fare due cose: avere fiducia, ed è fede, poi allungare il braccio, cioè compiere un'opera. Se ho solo fede e non allungo il braccio, sono perduto, mentre se allungo il braccio dimostro che possiedo una fede attiva. Perciò è vero che noi non siamo salvati dalle opere, ma è altresì vero che non possiamo entrare in cielo senza di esse. Perché la fede possa essere fede, occorrono dunque più elementi, la fiducia più l'opera. Possiamo dire quindi che chi ha solo fiducia in Dio, chi crede solo in Lui e non esercita tale fede, non sia salvato. Come del resto possiamo dire che le opere compiute senza fede restano inefficaci al fine della salvezza. I due elementi, meno fede e opera meno, devono sussistere assieme perché possa esistere la fede che salva. Come per formare la parola fede occorrono quattro lettere, F-E-D-E, così, per ottenere una fede che salvi, occorrono più elementi. Ecco perché Giacomo afferma nella sua lettera che Abramo e Rahab sono stati resi giusti dalle opere. Ecco perché ha enunciato che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto. In quella parola soltanto, Giacomo ha racchiuso tutto il suo messaggio. Per Giacomo, come per gli apostoli e i primi cristiani, che la salvezza fosse per fede era un dato scontato, ecco perché egli considera morta o inefficace la fede senza opere, mentre definisce perfetta, ossia completa, una fede con le opere. Perciò ogni volta che parliamo della fede dobbiamo tenere presente che essa sussiste solo se vi sono due elementi, fiducia e opera. Come per formare l'acqua occorrono due elementi, ossigeno ed idrogeno, così perché possa esistere la fede efficace occorre una fede operante. L'ossigeno da solo non forma l'acqua, come pure l'idrogeno, perché l'acqua è un elemento composto. E, per questo che Giacomo presenta le opere come mezzo di salvezza. Non sono tanto le opere e la fede che salvano, perché chi salva è Cristo Gesù, ma, avendo Dio stabilito di salvare l'uomo per grazia per mezzo della fede operante, l'opera di accettare il sacrificio di Cristo, quale unica soluzione alla propria perdizione e la completa fiducia in Lui, sono in grado di rendere, una volta per sempre, il peccatore giusto. Del resto l'opera e la fede le troviamo unite nel meraviglioso riassunto del messaggio evangelico di Paolo. Se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Romani 10.9. Per ottenere la salvezza occorre dunque credere con il cuore, ma anche confessare di aver creduto. Non tutti hanno dato importanza alla confessione, ma senza questa opera la fede non è completa e non è una fede salvifica. Perciò il messaggio di Giacomo diventa di un'attualità impressionante e, meglio ancora, diventa indispensabile comprenderlo per poter avere una visione completa del messaggio del Vangelo. Giacomo e Paolo dunque non recano due messaggi contraddicenti, anche perché Paolo, quando afferma che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge, Romani 3.28, si riferisce alle opere della legge e non alle opere che costituiscono la fede. Non a caso l'autore della lettera agli Ebrei dedica un capitolo intero a coloro che hanno avuto fede, e non a caso, dopo aver detto che avevano avuto fede, mette in risalto le loro opere. Infatti, Abele offrì un sacrificio, Noè preparò un'arca, Abramo soggiornò in terra straniera, Sara concepì, Giacobbe benedisse i figli, Mosè rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, Rahab accolse le spie. Le opere di questi credenti hanno messo in evidenza la fede composita. Perciò, dobbiamo predicare la fede come mezzo di salvezza e di comunione con Dio. Ma occorre insegnare anche che la salvezza e la vita cristiana sussistono per mezzo delle opere, componenti essenziali di una fede duale. Predicare qualcosa di meno significa non aver compreso il messaggio di Giacomo concernente l'essere resi giusti per mezzo dell'opera della fede. 1 Tessalonicesi 1.3. Ottobre 2006. Ellero.